Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto di Anima Jazz numero 665. Cominciamo subito con una bella novità discografica che ci propone Daniele Gregolin con il suo Clan Zingaro, un bel CD godibile dal primo all'ultimo pezzo, veramente molto bello non solo tecnicamente ma si sente anche una partecipazione interiore molto sentita. Il gruppo è formato da Daniele Gregolin alla chitarra, Martino Pellegrini al violino, Gabriele Boggio Ferraris al vibrafono, Simone Petracca e Claudio Lagumina alla chitarra ritmica e Giacomo Tagliavia al contrabbasso. Il CD è intitolato Spaghetti Gypsy e da questo CD noi ci ascolteremo Daphne, una composizione molto conosciuta di Django Reinhardt. Sentiamo la bella ed originale interpretazione che ci offre il Daniele Gregolin, Clan Zingaro. Buon ascolto. Thank you. Beh, direi una bella performance, una bellissima performance quella che ci ha offerto il Daniele Gregoli in Clan Zingaro con l'interpretazione di Daphne, questa bellissima canzone scritta da Django Reinhardt. La giusta energia, le belle performance tecniche, i bei fraseggi, sicuramente un bel arrangiamento vissuto, come dicevo prima, anche con partecipazione, non solo con la preoccupazione di far bene il compitino sul piano tecnico. Daniele Gregolina alla chitarra, Martino Pellegrini al violino, Gabriele Boggio Ferraris al vibrafono, Simone Petracca e Claudio Lagumina alla chitarra ritmica, Giacomo Tagliavia al contrabbasso. Un esempio di amore per il grande Reinhardt per la musica swing. Daniele Gregolin, Clan Zingaro, dal CD Spaghetti Gypsy. E adesso andiamo avanti con un'altra bella novità discografica. Si tratta di Bob Dusi e Michele Iaia, che insieme a Igor Butman, Marco Tamburini, ahimè purtroppo scomparso da poco, l'amico caro scomparso in un incidente motociclistico, e Marco Pacassoni, sono i compagni d'avventura di Bob Dusi e Michele Iaia in questo progetto discografico pubblicato dall'Alpha Projects intitolato e Private Voyage. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è uno tra quelli, perché il CD è tutto veramente molto bello e molto interessante, ma uno tra quelli che mi ha colpito maggiormente, ed è il pezzo d'apertura del CD, West Song. Buon ascolto quindi con Bob Dusi e Michele Iaia dal CD e Private Voyage. Thank you. una godibilissima performance questa che ci ha offerto il gruppo capeggiato da Bob Dusi e Michele Iaia. Il pezzo era intitolato West Song, una composizione di Roberto Dusi che ha messo in evidenza le grandi capacità tecniche non solo dei due leader di questo gruppo, Bob Dusi e Michele Iaia, ma anche dei musicisti che in questo CD rendono prezioso il progetto discografico con le loro partecipazioni di grande rilievo tecnico. Una pubblicazione questa intitolata A Private Voyage, pubblicata dalla Alpha Projects, veramente molto interessante. Dal primo all'ultimo pezzo sono rimasto attaccato all'ascolto con grande interesse. Il CD si sviluppa con progetti sempre molto interessanti. Ogni canzone, ogni pezzo, ogni composizione è veramente un gioiellino. Ricordo che a impreziosire questo disco di Bob Dusi e Michele Iaia ci sono anche Igor Butman, lo scomparso Marco Tamburini e Marco Pacassoni. Bene, dopo Bob Dusi e Michele Iaia è il momento del grande sassofonista Andy Shepherd. Andy Shepherd ha realizzato per la ECM un bel CD intitolato Surrounded by Sea. Andy Shepherd è al sax tenore e al sax soprano in questo disco. Alla chitarra abbiamo Eivind Arset, al contrabbasso Michael Benita, alla batteria Sebastian Rofford. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è un particolare traditional che però è stato arrangiato in modo molto originale, molto particolare dal gruppo, non solo da Shepherd, anche da Arset, da Benita e da Rockford, quindi una particolarità assoluta, anche perché a volte certi arrangiamenti sembrano quasi più reinventati, più invenzioni rispetto alle composizioni originali, sono veramente dettate da un'illuminazione interiore molto particolare. Ecco, questa che vi farò ascoltare è un arrangiamento veramente illuminato di Aoid Nadin Kadal Idir, questo è il titolo del pezzo tradizionale, arrangiato da Shepherd, Arset, Benita e Rockford. Buon ascolto. Bene, questa era la performance che ci ha offerto il grande Andy Shepherd con la sua band, una band di musicisti di altissima sensibilità, di altissimo valore. Andy Shepherd al sax soprano, Eivind Arset alla chitarra, Michael Benita al contrabbasso e Sebastian Rockford alla batteria. Un gruppo coeso in questa composizione che, come vi ho detto, è un traditional che però è stato completamente arrangiato dai quattro musicisti insieme, quindi un progetto condiviso, vissuto con grande complicità. Il pezzo, come avete sentito, è stato realizzato con una estrema poesia, con estrema sensibilità, e offre veramente occasioni di ascolto di alta levatura. Il progetto è molto bello, chiaramente in sintonia con le atmosfere tipiche della casa tedesca, della ECM, che propone sempre queste atmosfere rarefatte, particolari. Il CD è intitolato Surrounded by Sea, Andy Shepherd Quartet. E adesso ritorniamo in Italia. Ci ritorniamo con un cantante, cantautore, chitarrista che si chiama Antonello Frongia. Non è propriamente un cantante jazz, ma pur essendo un artista cosiddetto trasversale, nel senso che si interessa di vari generi e non si identifica in un linguaggio più che in altri, però non disdegna ogni tanto anche qualche composizione all'interno del genere jazz. Ci ha inviato un CD molto gentilmente, noi abbiamo ascoltato con interesse e volentieri promuoviamo questo CD intitolato Awareness, appunto a cura di Antonello Frongia, dal quale ho selezionato per voi questo pezzo intitolato Un altro swing, una delle composizioni che rientrano nel nostro settore, quello del jazz. Insieme ad Antonello Frongia abbiamo Renato Droghetti alla programmazione alle tastiere, Pierpaolo Cardia ai pianoforti, Nicola Cipriani alle chitarre acustiche ed elettriche, Marco Borazio al sax, Valentina Mattarozzi alla voce femminile. Antonello Frongia chiaramente è il vocalist di questo pezzo. Buon ascolto. Ho visto lui, ho visto te, non me la date a bere. Ho visto quello sguardo, l'occhio lungo, sai. Distempera il ricordo, so che non impazzirò. Se ormai non è possibile più nulla fra di noi. Ancora bene quelle quattro sere, mi arrendo al disincanto di chi non ci azzecca mai. Ricasco un po' nel vizio di brigarmi un altro swing, magari faccio centro proprio in questa cosa qui. Amare, dare e avere non è morire dentro, forse questo già lo sai. Il gioco della vita ogni momento toglie e dà. Posso smetterla di essere un eterno Peter Pan. L'occhio lungo, sai, ti stemperà il ricordo, so che non impazzirò, se ormai non è possibile più nulla fra di noi. Il gioco della vita vita, ogni momento togli età. Posso smetterla di essere un eterno Peter Pan. Di brigarmi un altro swing. E ci siamo ascoltati anche Antonello Frongia, questo cantautore che, come ho detto prima, spazia soprattutto nell'ambito del pop, ma che ama anche fare delle incursioni in altri ambienti musicali, quali per esempio in questo caso anche il jazz. Antonello Frongia ha realizzato questo CD intitolato Awareness, e questo era un pezzo scritto da lui intitolato Un altro swing, ed insieme a lui in questo pezzo avevamo anche Renato Droghetti alle programmazioni tastiere, Pierpaolo Cardia ai pianoforti, Nicola Cipriano alle chitarre acustiche ed elettriche, Marco Borazio al sax e poi Valentina Mattarozzi come seconda voce, Antonello Frongia alla voce. Bene, lasciamo il cantautore Antonello Frongia e questa sua gradevole e simpatica canzone che ci siamo appena ascoltati, un altro swing, e andiamo avanti con una cantante che è anche una discografica. Si tratta di Valentina Gramazio. Valentina Gramazio, che per la Jezzy Records, che gestisce, ha realizzato un bel CD intitolato Per Inciso, un CD che vede la preziosa collaborazione di uno dei più grandi musicisti italiani, Giovanni Mazzarino, pianista, compositore, arrangiatore di grande valore, e poi con il prestigioso supporto di Riccardo Fioravanti al basso elettrico e al contrabbasso, Stefano Bagnoli alla batteria, Stipto Gatt alla tromba e al flicorno, Umberto Ameschita al trombone, Gaetano Valli alla chitarra e Giuseppe Bellanca ai cori, tutti musicisti di grande esperienza e di grande capacità che rendono veramente prezioso questo CD, molto bello anche nella sua veste grafica, con delle opere grafiche all'interno, belle fotografie, una bella confezione. Il pezzo che ci andremo ad ascoltare stasera da questo bel CD di Valentina Gramazio è intitolato proprio Per Inciso ed è il titolo del CD. Un buon ascolto quindi con Valentina Gramazio featuring Giovanni Mazzarino Group. Governare il tempo, decidere la sua verità. controllare il tempo. Può essere una grave ingenuità, ti sfugge mentre cerchi di domarlo e rischi di lasciar tutto a metà. Per questo io non guardo le lancette e vivo ad una mia velocità. Ci siamo ascoltati Per inciso, una composizione originale di Valentina Gramazio, che non solo è una valida vocalist ma è anche una compositrice, e si avvale in questo caso per questo bel progetto discografico che porta lo stesso nome della composizione che abbiamo ascoltato, e quindi Per inciso si avvale, come dicevo prima, della collaborazione agli arrangiamenti e non solo, anche come musicista, Giovanni Mazzarino con il suo ensemble. Un arrangiamento molto gradevole, una composizione che mette in evidenza questo amore per lo swing italiano, ma rivitalizzato, rivissuto ai tempi dell'oggi, e quindi c'è un richiamo al passato, e questo è gradevole anche proprio perché è bello poter avere coscienza di quello che c'è stato prima di noi, che ha fatto grande la nostra musica e che rende il nostro background culturale molto ricco, molto ampio e sempre, come dire, attivo, nel senso che vi si può attingere non passivamente, ma riuscendo a trovare delle istanze anche contemporanee, delle istanze legate al nostro tempo per creare nuova musica. Valentina Gramazio alla voce, Giovanni Mazzarino, come ho appena detto, al pianoforte ma anche agli arrangiamenti, e poi in questo CD sono presenti anche Riccardo Fioravanti al basso, Stefano Bagnoli alla batteria, Stepto Gatt alla tromba, Umberto Ameschita al trombone, Gaetano Valli alla chitarra e Giuseppe Bellanca ai cori. Quindi un CD molto ricco di belle composizioni originali e di belle performance strumentali di questa ottima band. Per inciso, Valentina Gramazio, Jazzy Records. E adesso andiamo avanti con di nuovo un salto all'estero, facciamo un salto all'estero e lo facciamo con Adam Bimbaum, che è un pianista molto bravo, che ha realizzato un CD intitolato Free of a Mind, dal quale noi ci ascolteremo Brandin, insieme a Adam Bimbaum al pianoforte, Doug Weiss al contrabbasso e il grande Al Foster alla batteria. Buon ascolto con il trio di Adam Bimbaum. Thank you. E beh, la grande classe di Adam Birnbaum, un musicista di grande esperienza, di grande capacità tecnica, ma anche di straordinaria sensibilità. E il pezzo è intitolato Brandin, una composizione originale che Adam Birnbaum propone in trio con Doug Weiss al contrabbasso e Al Foster alla batteria, un trio collaudato che offre grande dinamicità e nello stesso tempo una perfezione quasi di esecuzione, con questa grande complicità di intenti all'interno di questa poetica di Adam Birnbaum, molto vivace, molto pimpante, che riesce a coinvolgere emotivamente dal primo all'ultimo momento. Tree of a Mind è il titolo del CD dal quale ci siamo ascoltati questo Brandin, questa composizione originale di Adam Birnbaum. E adesso andiamo avanti con The Girl from Ipanema, un titolo, un progetto del Beligna Bossa Duo, un duo formato dalla cantante Maya Solovey e dal pianista brasiliano Vitor Gonçalves. Questo duo però, in questo progetto particolare The Girl from Ipanema, è supportato da un numero uno del panorama jazzistico internazionale, il brasiliano Robertinho de Paula, e quindi diventa un trio straordinario. Ascoltiamo quindi l'interpretazione di questo pezzo, che è il pezzo che dà anche il titolo al CD, quindi The Girl from Ipanema. Buon ascolto. Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a summer that swings so cool, sighs so gentle, that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but I watch her so sadly. Tell her I love her. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a summer that swings so cool, say so gentle, that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but I watch her so sadly. Walking, But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile. She doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see. Bene, questo era il delicato, gradevole Beligna Bossa duo formato dalla cantante Maya Solovey e dal pianista brasiliano Vitor Gonçalves. Il duo in questo caso ha anche un ospite d'onore che è il chitarrista Robertinho De Paula, che è presente in vari pezzi del CD intitolato The Girl from Ipanema. Noi ci siamo ascoltati proprio il pezzo che dà il titolo all'album, un CD veramente molto carino, molto morbido, con delle interpretazioni sicuramente molto poetiche, molto sentite, vissute con gentilezza e con eleganza. Dopo The Girl from Ipanema, propostoci dal Beligna Bossa duo featuring Robertinho De Paula, è il momento di tornare in Italia con Alessandro Girotto, che per Jazz Engine ha realizzato un CD intitolato Short Pink insieme ad Erasmo Bencivenga al pianoforte, Nicola Borrelli al basso e Tommaso Tozzi alla batteria. Alessandro Girotto alla chitarra guida questo gruppo per farci ascoltare una sua composizione intitolata Hotel Paradiso. Buon ascolto. Thank you. Bene, questa era la musica di Alessandro Girotto, una musica elegante, come avete sentito, raffinata, e che ci ricorda ancora una volta quanto sia in questi ultimi anni possibile un approccio al jazz con una visione europea ed italiana. Buon jazz, però con delle caratteristiche che non lo fanno confondere con altri, dall'armonia a tutta una serie di altre atmosfere che sono decisamente europee ed italiane in particolare, che fanno di questo jazz un jazz particolarissimo, un jazz di grande qualità, non più secondo a nessuno, sicuramente un jazz vissuto con grande proprietà di linguaggio, con grande capacità tecnica e con grande sensibilità. Alessandro Girotto è alla chitarra, insieme a Erasmo Bengivenga al pianoforte, Nicola Borrelli al contrabbasso e Tommaso Tozzi alla batteria. Il CD intitolato Short Pink, pubblicato da Jazz Engine, e il pezzo che ci siamo ascoltati, una composizione originale intitolata Hotel Paradiso. Bene, e adesso siamo arrivati alla fine della nostra serata. La fine della nostra serata viene affidata ad una musicista che è una polistrumentista, perché Melinda Ligeti, questo è il suo nome, non solo scrive musica, canta, suona il flauto, il pianoforte, le tastiere, la chitarra sia classica che acustica, il basso, le percussioni, la batteria, tutta l'elettronica. È veramente una polistrumentista a tutto tondo, Melinda Ligeti. Con queste grandi capacità e la sua sensibilità, la sua capacità poetica, ha creato un CD intitolato Belonging, pubblicato da Acustronica, dal quale io ho selezionato per voi questo bel pezzo intitolato To Define. Buon ascolto quindi con Melinda Ligeti. Bene, questa era Melinda Ligeti con queste sue particolari atmosfere create, come dicevo prima, in completa e totale autonomia. Melinda Ligeti, come ho detto prima, una polistrumentista, crea musica, quindi è una compositrice, scrive musica, scrive le parole, canta, suona il flauto, il pianoforte, le tastiere, suona le vari tipi di chitarre, suona il basso, le percussioni, la batteria, e nello stesso tempo cura anche, come avete sentito in questo pezzo, abbondantemente l'elettronica. Melinda Ligeti ci ha proposto una sua composizione originale intitolata To The Fine, tratta dal CD Belonging pubblicato da Acustronica. Melinda Ligeti, con la quale concludiamo anche questa 665esima puntata, che è stata, come spesso accade, all'insegna della varietà dei linguaggi del jazz, per ricordarci quanto è ampio questo ambito e quanto possa essere stimolante e interessante l'ascolto delle sue varie anime. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anime Jazz.